divaneò prestanca. A lui tendo le braccia. Vicina, una maligna voce desta ti orsu cammina, ripiglia la tua croce, mi sibila vicina. La tua croce, la